Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Per un innamorato è l'amore, per un malato la salute, per il disoccupato il lavoro, per un giocatore la vincita, per un povero la ricchezza. Ognuno cerca una sua felicità che non riuscirebbe probabilmente a rendere felice qualcun altro. Insomma, la felicità sembra essere tante cose diverse. Buongiorno da Nicoletta Carbone, sono le 11:09. Oggi vi chiedo, siete felici? Felicità improvvisa, vertigine, illusione ottica, occasione da prendere, parcheggiala senza freccio triangolo, tutti dormono già e si è spento il semaforo. Chiedetemi se sono felice. Sei felice? Tantissimo. Guarda cosa ho trovato sotto la porta. La bicicletta, bella. Questa è una lettera di Dalia, cretino. E ha scritto che non mi vuole più vedere. È persa per sempre grazie a te. Oh, se tu dici secondo piano e il terzo piano non Vabbè, è colpa mia. Comunque con te non voglio più parlare, veramente. Comunque la cosa grave è un'altra. Qual è? Ho dato l'anello a Silvana. Cioè, ma dovevi scaricarla e le hai dato l'anello? Sì, però prima le ho dato una testata. Anzi, rispondimi. Sì! Sì, già te lo leggo negli occhi, Tole. Sei il re degli scaricatori. Porca miseria, va. Avanti, hai recuperato anche l'anello. Hai dovuto dargli una testata. Però non me l'hai detto che Silvana vive con una ragazza bellissima, eh? Che cosa vuoi dire? Chiedimi se sono felice. Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma per voi che cos'è la felicità? Oggi ne parleremo insieme partendo proprio da un libro della dottoressa Lucia Giovannini, fondatrice dell'associazione Bless You e counselor, nonché membro dell'American Psychological Association, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Devo dire che più del titolo ha attirato la mia attenzione il sottotitolo. Il titolo è Mi merito il meglio. Ed è ancora più bello, mi sembra, il sottotitolo: Fai pace con te stesso e scegli di essere felice. Buongiorno intanto. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Salutiamo anche Alberto Pellai, che come ogni mercoledì si trasferisce a Essere Benessere in queste puntate dove si accendono i pensieri ed emozioni. Alberto, benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottoressa Giovannini, intanto ci aiuti a capire con esattezza cosa voi esperti definite con il termine felicità. Cos'è la felicità secondo la prospettiva psicologica? Allora, la felicità di cui parlo in Mi merito il meglio ha due aspetti principali. Il primo è che la felicità è un luogo interiore, quindi la felicità non è tanto intesa come piacere dei sensi o come euforia, che per carità vanno benissimo. Aiutano. Sì, aiutano, però possono essere solo momentanei, transitori, impermanenti. Insomma, la felicità è uno stato d'animo, di serenità di base, indipendentemente da ciò che succede fuori di noi. Il secondo aspetto è quello della felicità intesa come eudaimonia nell'accezione di Aristotele, no? Dal greco fioritura, pienezza dell'essere, quindi felicità come realizzazione interiore, risveglio dei propri talenti, insomma. Quindi questo un po' significa essere o cercare di essere il meglio che possiamo essere, come figli, come padri, come madri, come compagni, come lavoratori, manager. Questa è l'idea, essere al meglio di se stessi. Alberto, tu che ti occupi di psicologia dell'età evolutiva, noi siamo oggi in grado di insegnare la felicità e si può insegnare ai nostri figli a essere felici? Ma diciamo che i nostri figli in qualche modo diventano un po' lo specchio di quello che vedono intorno a loro, per cui più un adulto significativo per un bambino o un adolescente va nella direzione che ci diceva la dottoressa Giovannini, più probabilmente sta bene, felice. Certo, nel nostro percorso di crescita noi abbiamo una zona della vita che è l'infanzia, dove è quasi fisiologico e naturale essere felice. Può essere contaminata la felicità di un bambino da quello che sta fuori, ma se tutto funziona bene, se c'è la salute, i bambini hanno un rapporto naturale con la felicità. L'adolescenza è una fase di crisi dove molte volte vediamo dei ragazzi diventare infelici, ma proprio perché si stanno ponendo quelle grandi domande sul senso di sé, sul senso della vita, che necessariamente devono essere affrontate anche attraversando una crisi per poter poi arrivare pienamente alla conquista del proprio sé adulto nel momento in cui arrivano a capire chi sono e cosa vogliono essere. Dottoressa Giovannini, però la felicità è un desiderio di tutti, è un traguardo invece per così pochi. Lei ha detto che uno stato interiore, forse per questo che poi alla fine ci sentiamo sempre un po' insoddisfatti, infelici, sbattiamo un po' a destra e a sinistra, non sappiamo dove dirigerci per essere appagati, sereni con noi stessi. Ci sono tante definizioni di felicità. Sì, e anche ci sono delle trappole in cui cadiamo, ci sono dei falsi miti, ne dico giusto due, insomma, per dare un'idea. Il primo falso mito, per esempio, ha a che fare con ciò che ci serve per essere felici, perché se chiediamo alla maggior parte delle persone di che cosa hai bisogno per essere felici, molti pensano per esempio ad avere più soldi, no? Avere più soldi perché questo risolverebbe tanti problemi, ma tutte le ricerche dimostrano gli stessi risultati, lo stesso tipo di schema, cioè in uno stato di estrema povertà, certo che il tasso di felicità si abbassa, ma una volta che le nostre necessità di base sono soddisfatte, il tasso di felicità si stabilizza ed avere più reddito non lo cambia. Ad esempio, quindi questo è un falso mito. Un altro falso mito ha a che fare proprio con la nostra capacità di influenzare il nostro livello di felicità, perché molti credono che il livello di felicità sia qualcosa che non possiamo controllare, come non so, un colpo di fortuna o qualcosa, la felicità che viene e va in un attimo. Invece non funziona così, la felicità è proprio un'abilità e come tale possiamo apprenderla, possiamo imparare a essere felici. Allora, dottoressa, io voglio subito coinvolgere i miei ascoltatori e a cui chiedo di aiutarci a capire qual è il segreto personale che aiuta a fare pace con se stessi e a sentirsi felici. Insomma, qual è la vostra personale strategia alla ricerca della felicità? Scrivetecelo, lo state già facendo, anche se non vi abbiamo attivati, questo mi fa molto piacere. Il nostro numero è 349-238-6666. Sceglieremo la ricetta della felicità dai vostri messaggi e quella che la dottoressa Giovannini riterrà più bella, più felice, una definizione più felice, riceverà a casa il libro di Lucia Giovannini, Mi merito il meglio, di Sperling e Kupfer. E dopo queste immagini di felicità, entriamo invece nella mente per ottenere immagini più tecniche. La felicità non nasce nella pancia, né nel cuore, né nel cervello. Come tutte le emozioni, anche il senso di felicità deriva da una reazione biochimica del cervello. L'organismo risponde a situazioni tristi o felici con un alternarsi di trasmettitori chimici che hanno un ruolo fondamentale per il benessere. Tra questi ingredienti del buon umore troviamo le endorfine e la serotonina, cugina stretta dell'adrenalina. Una piccolissima quantità di serotonina, conosciuta come l'ormone della felicità, basta per farci sentire bene. Tuttavia, se il livello di serotonina scende cronicamente, tendiamo al cattivo umore e all'infelicità. Le endorfine, come una chiave, aprono la serratura di alcuni recettori posti sulla membrana cellulare di alcune cellule nervose, proprio come fanno alcune droghe come l'oppio, motivo per cui gli ormoni della felicità sono chiamati anche gli oppiacei endogeni, da cui il termine endorfine. E parlando di cervello, non potevo fare a meno di chiamare il professor Alberto Oliverio, psicobiologo all'Università Roma La Sapienza. Buongiorno professore, bentornato, grazie. Buongiorno. Professore, a me incuriosisce questo sguardo altamente scientifico che il neuroscienziato ha quando parla e lavora su un tema che per secoli è stato di pertinenza più filosofica. Ma cosa vede il neuroscienziato nel cervello della persona felice? Ma anzitutto vede una differenza tra umore e felicità, perché si può essere, diciamo, di un umore positivo, non necessariamente felicissimi, oppure di un umore non elevato, ma non necessariamente infelici. Però certo, l'umore è già un trampolino di lancio, diciamo, della felicità. L'umore nasce in buona misura appunto dalle condizioni del cervello. Ora, in alcuni casi, come le depressioni, quando l'umore è negativo, si vede tutta la realtà con un paio di occhiali scuri, insomma, sì. Tutte le cose passano per i loro aspetti negativi, persino i sogni sono negativi della persona depressa. E questo chiaramente blocca la strada a possibili eventi felici o reinterpretazioni della felicità. Poi invece la felicità vera e propria, certo, dipende anche dallo stato dei mediatori nervosi, oppure l'essere felici per qualche cosa si accompagna ad una scarica di mediatori e di sostanze che avvertano la nostra mente, il nostro corpo, che abbiamo raggiunto quell'obiettivo, che siamo felici. Ero incuriosito da questo aspetto legato alla storia dell'età evolutiva, cioè voi riuscite, voi neuroscienziati, a studiare lo sviluppo del cervello, per esempio, di un bambino e poi di un adolescente, e a capire se quello è un cervello che si prepara a regalare una vita felice al futuro uomo e donna adulto in base anche al tipo di esperienza di vita che uno vive nei primi anni della sua esistenza? Questo è un po' difficile da seguirsi, bisognerebbe fare uno studio su tantissimi bambini, sottoporli a test abbastanza complessi, sia di tipo psicologico sia di tipo neuroscientifico. Diciamo che i meccanismi di rinforzo, quelli che poi ci rendono soddisfatti di aver raggiunto la meta, sono abbastanza banali, diciamo, sono presenti negli animali, sono presenti nei bambini, sono presenti negli adulti e implicano una liberazione di dopamina. Quindi, anche se questo studio non è stato fatto, che mi risulti, penso che, ecco, uno potrebbe seguire quanto uno si sente rinforzato da aver raggiunto una qualche meta, e da quello potrebbe fare così delle estrapolare delle predizioni su quello che sarà il futuro. Però non vorrei essere così, diciamo, meccanicista da pensare che uno scarso meccanismo di rinforzo iniziale necessariamente comporti un adulto che non si sente rinforzato e quindi infelice. Professore, noi abbiamo capito che la serotonina ha un ruolo importante nel produrre, nel predisporci alla felicità, e sappiamo che ci sono alimenti ricchi del precursore della serotonina, il triptofano, sono i cereali, tutti i cereali derivati, soprattutto la farina di avena, la farina di frumento, quella di segale, ma anche va bene la pasta di semola, i legumi secchi, le verdure, in questa stagione troviamo il cavolo, i carciofi, gli spinaci, la frutta secca, le banane, ecco, ne ho detto alcuni, ma consumarli nelle giuste quantità è un'idea felice, professore? Ci possiamo aiutare anche con la dieta? Ma sì, non è un'idea infelice, diciamo, nel senso che questi sono precursori poi di mediatori nervosi come la serotonina, che in qualche modo migliorano l'umore. Al tempo stesso ci sono anche sostanze tipo la cioccolata che aiuta a tirarsi su, perché in qualche modo contribuisce alla liberazione di endorfine. E naturalmente tutto ciò ha anche i suoi svantaggi: se uno mangia troppo farinacei o mangia troppo cioccolata, poi magari ingrassa, allora si sente infelice. Quindi diciamo che una qualche moderazione è importante, però certo una zolletta di cioccolata ad esempio ci consente a volte di cambiare un po' d'umore. Professore, noi abbiamo chiesto ai nostri amici di darci la loro ricetta, no, della felicità, o la strategia. Mi può dare anche la sua? Ma sapere vedere anche l'aspetto positivo in cose banali della vita quotidiana, insomma, non cercare subito la grande felicità, ma saper guardare con occhi diversi, diciamo, la realtà che abbiamo dato per scontata: anche una bella giornata, gli alberi del parco, il cielo sereno, un amico che incontriamo e così via. Diciamo, sono piccoli aspetti della vita quotidiana che possono ristrutturare un po', se sappiamo riconoscere il nostro atteggiamento globale. Grazie professore per essere stato con noi, buona felicità. Prego. Allora, buona giornata. Grazie anche a voi. Dottoressa Giovannini, l'ha sentito quello che ci ha raccontato il professore nella parte in cui abbiamo parlato di serotonine, di biochimica del cervello, in termini informatici è praticamente l'hardware. Con lei invece noi vogliamo lavorare maggiormente sulle componenti del software. Io uso questi, no, questi termini per fare un po' un confronto. Io vorrei che lei ci aiutasse allora a capire quali sono i programmi che dobbiamo inserire nel nostro computer personale, che è un po' il nostro cervello, ma non solo, per avere un po' una strada, un occhio, come suggeriva il professore, un punto di vista, un'osservazione della realtà che ci rende più felici, cioè dà maggiore senso alle cose. Certo. Sì, questa infatti è anche proprio l'idea del mio libro. 40 punti, vero? Per avvicinarsi a questo traguardo. Intanto io chiederei ad Alberto di leggere alcuni dei messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666, il migliore, quello ritenuto dalla dottoressa Giovannini. Alberto se ne selezionerà alcuni e poi la dottoressa Giovannini sceglierà quello che è più in sintonia, no? Anche con lo spirito, la filosofia del suo libro, riceverà a casa, grazie alla collaborazione con IBS, Mi merito il meglio. Alberto. Ma direi intanto leggo quello di Andrea, che è un po' arrabbiato perché dice: come fate a continuare a dire che i soldi non danno la felicità? Dopo la salute, lo stato più importante, i soldi influenzano ogni aspetto della vita, la sua relazione non dipende solo dalla quantità, ma da come produco il denaro e da come mi rende libero. Per cui Andrea fondamentalmente contesta l'idea che noi possiamo lavorare su una felicità che non dipende dalla nostra ricchezza. Ma allora gli leggiamo subito un altro SMS arrivato subito dopo il suo: la mia ricetta è stata la pratica buddista, soffrivo di depressione, forse recitare il mantra attiva la serotonina, per me ha funzionato, quindi mantra e semplicità. L'ultimo che vi leggo, ma sono tantissimi: la felicità è poter rientrare a casa la sera e poter contare su un sorriso di mia moglie e dei nostri bimbi, la felicità è potersi svegliare al mattino e affrontare con serenità i problemi quotidiani, la felicità è un senso di equilibrio interiore. Voglio leggere un messaggio di Fabrizia di Verona che ci scrive: non è retorica, il clou della felicità è un attimo, per me sono stati due, i miei due parti, con mio marito vicino e sanciti dal più classico pianto di apoteosi. Fabrizia, grazie per farmeli rivivere ricordandomeli, e domani invito subito Fabrizia a seguire la puntata di Essere Benessere in cui parleremo proprio di gravidanza, 9 mesi di attesa che cercheremo di vivere proprio in un percorso sensoriale. Ma dottoressa, io vorrei entrare allora in questo percorso. Lei dice, ho sentito anche molte sue interviste, lo legge, lo scrive anche nel libro, insomma è una sorta di allenamento quello che lei propone, vero? Assolutamente sì. Nessuno si sognerebbe di, non so, per esempio giocare un torneo a tennis senza essersi esercitato. Certo. E la stessa cosa, abbiamo bisogno di imparare ad esercitarci. Infatti lei nel primo punto dice, parla del cambio di prospettiva. Cos'è? Perché è importante? Come si ottiene? Però cito a questo proposito Michael Caine, Alberto, che piace molto anche a te, che diceva: ho una regola, non ascolto mai nessuno che mi spiega perché non può fare qualcosa, non voglio che mi convinca. Dottoressa Giovannini. Esattamente. Di fronte a ogni situazione abbiamo due scelte: o stiamo dalla parte degli effetti e allora malediciamo la nostra sfortuna o l'infanzia o il partner o il capo e continuiamo a raccontarci che non ci possiamo far niente, che è colpa degli altri, che è colpa del destino, oppure possiamo stare dalla parte delle cause e assumerci la responsabilità della nostra vita. E per responsabilità non intendo assolutamente colpa, intendo proprio response/abilità, abilità a dare risposte. Quindi significa abilità a dare le risposte degli eventi della nostra vita, usare la nostra capacità di scegliere come rispondere, insomma, alle nostre esperienze. Quindi se stiamo dalla parte degli effetti troveremo mille giustificazioni, mille scuse per non cambiare, per non agire, e diventeremo bravissimi a trovare ragioni sempre più elaborate. Più siamo intelligenti, più le giustificazioni saranno plausibili e a forza di ripetercele finiremo per crederci. E quindi ci convinceremo che non esistono altre possibilità. Invece, se stiamo dalla parte delle cause, ci ricordiamo che siamo chiamati ogni giorno a scegliere chi vogliamo essere, insomma. Quindi ci ricordiamo che siamo noi a decidere, che nessuno ci può obbligare a fare scelte che non vogliamo, o addirittura che nessuno ci può far arrabbiare o fare sentire inferiori, a meno che non siamo noi a permetterglielo, a decidere di arrabbiarci. E quindi significa anche iniziare a fare domande che ci portano a esplorare meglio, certo, le nostre azioni, reazioni. Insomma, bisogna allenarsi, a volte dura. Affronteremo tra poco il secondo punto, che presumo un totale cambio di paradigma, ma se volete scoprire cos'è e come si fa, vi invito a rimanere con noi. 800 24 00 24, Roberto Scaltritti, che regia la parte tecnica e che ringrazio insieme a Laura Vanossi, mi dice infatti che sono pronte le notizie dei mercati. Seguirà il meteo, la giornata, il sole sicuramente aiuta, no, a essere, a guardare la vita sotto un altro modo. Vi aspetto subito dopo. ben trovati alla ricerca della felicità. Ebbene sì, proprio questo è il tema di cui parliamo oggi. Stiamo lavorando con quella che potrei chiamare una coach di felicità, la dottoressa Lucia Giovannini, ma come sempre ci sostiene anche il nostro papà di questa casa non è un albergo. Lui di figli ne ha già quattro, però noi lo viviamo un po', no? Come un papà illuminato, Alberto Pellai. 800 24 00 24 se volete intervenire, 349 238 6666 se volete mandarci la vostra ricetta di felicità, e se uno di la ricetta, mi stavo impaperando, che piacerà di più a Lucia Giovannini riceverà a casa Mi Merito il Meglio. Intanto volevo salutare Luca da Milano. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi. Com'è oggi? Ma guardi, la sua trasmissione cade prettamente a fagiolo. A fagiolo, oppure sono il cacio, insomma, va bene, mi piace questo ruolo. Bene. Grazie a voi. Tutto un piacere, un saluto a lei e ai suoi ospiti. Sì. Allora, mi potrà sembrare strano, è un motivo della mia felicità, è anche forse un po' populista, ma credo che tocchi la massa, cioè il 90% del popolo italiano. Mm. Io ho capito come posso essere felice. Oh. Ho capito. Come fa? Bravo. Ho un obiettivo. Andarmene via dall'Italia. Mm. E questo già solo l'idea la rende felice? Sì. E le spiego in modo molto sintetico. Sì. Diciamo che la felicità è condizionata dalla quotidianità. Mm. Quindi io mi scuso con la dottoressa Giovannini, con la scrittrice. Mm. Non c'è un manuale della felicità, non può esistere, certo. è utopia pura. Quindi quello che le volevo dire è che questa mattina, per esempio, ho fatto 2 ore e mezza in autostrada, ho chiamato le autostrade, va tutto bene, non ci sono problemi, 4 cartelloni dicevano che c'era soltanto una coda, l'ultimo cartellone, lavori. E quindi, io lo sapevo prima, insomma, Luca, uscivo. Lei la sua felicità è scappare via da questo paese, lo dice anche senza un po' di amarezza. Io, ad esempio, per me sarebbe un po' una sconfitta lasciare il paese. Io non condivido la sua idea, ma la rispetto e passerei la parola alla dottoressa Giovannini. Immagino che ce ne sono tantissimi di libri sulla felicità, no? Si sono cimentati filosofi, sociologi, psicobiologi, scrittori. Io penso che la lettura di un libro non ci renda felice, ma ci dia qualche spunto. Ecco, penso che lei, Luca, abbia ragione quando dice non ci sono manuali. A me piacerebbe moltissimo, no? Seguire un manuale passo passo e diventare una donna pienamente felice, come se, no, l'aiuto ci arrivasse dall'esterno. Penso che questi libri, come Mi Merito il Meglio, che io ho letto e che ho trovato interessante, per questo ve lo propongo, ci aiutino in qualche modo a vedere, no, quello che ci circonda magari da un'altra prospettiva. Questo potrebbe essere già una specie di cambio di paradigma, e lascio la parola alla nostra esperta, perché noi stiamo facendo passo passo una sorta di percorso. Dottoressa. Infatti è proprio l'idea, è proprio il cambio di paradigma, perché noi siamo convinti che la nostra vita sarà migliore quando fuggiremo dall'Italia, quando troveremo lavoro, quando andremo in pensione o saremo sposati, quando avremo un figlio, oppure quando nostro figlio sarà più grande. E quindi la maggior parte delle persone vive guidata proprio da questo paradigma: avere, fare, essere. Quindi quando avremo qualcosa, più tempo, più denaro, una relazione, eccetera, potremo finalmente fare qualcos'altro, dedicarci a un hobby, andare in vacanza, iniziare una relazione, ciò ci permetterà di essere felici. Ma il fatto è che avere non produce essere, è esattamente il contrario, è l'essere che produce l'avere. Quindi noi siamo abituati a desiderare continuamente qualcosa, e non fraintendetemi, avere dei sogni e trasformarli in obiettivi è importantissimo e va benissimo. Ma il rischio qui è credere che la felicità si ottenga solo una volta che siamo arrivati a destinazione, solo quando avremo raggiunto i nostri obiettivi. E questo non fa altro che mettere in stallo la nostra vita. È un modo di pensare molto rischioso, molto subdolo anche, perché spesso non ci rendiamo nemmeno conto di metterlo in atto, finché poi non ci sentiamo delusi, paralizzati, frustrati. Quindi una buona, veramente domanda da farsi è: cosa sto aspettando per essere felice? Lo chiediamo anche a Giuliano da Treviso. Buongiorno, magari invece lui non sta aspettando, è già riuscito a vedere, a dare un senso, a fare pace con se stesso, a scegliere di essere felice. Giuliano, buongiorno. Buongiorno. Sì, no, volevo dire che a mio modo di vedere, ecco, bisogna cercarla un po' la felicità, e la si trova, non è che la si trova. Lei dove l'ha trovata, Giuliano? Beh, guardi, cercando innanzitutto di sapere chi sono e da dove vengo fuori con il mio carattere, la mia famiglia d'origine, da capire un attimino e chi sono, ecco. E fatto questo, sì, con anni sicuramente, con l'aiuto anche dello yoga, ecco, e diciamo che ho imparato a non giudicare, sì, e come si può dire, e soprattutto fare una regola della mia vita: io valgo, tu vali. Alberto, io valgo, tu vali, mi piace. A te? Certo, stavo ripensando ai molti stimoli che ci danno i nostri ascoltatori. Io credo, e l'ha detto molto bene la dottoressa Giovannini, che effettivamente per noi troppo spesso la felicità è ovunque ma non chi, ed è coltivare un altrove. Credo che il cambio di paradigma, il cambio di prospettiva sia quello che vivo con intensità e con consapevolezza, do un significato al mio essere nel qui ed ora, che è un po' il punto in cui la vita mi ha portato. Luca ci diceva: sono in coda da 2 ore, ed è chiaro che non si può essere felici in coda, non è quello un momento in cui trovare la felicità. Del resto non si può nemmeno concludere che è sempre così, sono talmente infelice perché in ogni momento l'infelicità mi viene addosso, e a quel punto la coda al supermercato, la coda in autostrada, la coda in banca, l'influenza, il raffreddore, le campane che suonano al mattino diventano tutti fattori con cui uno si convince: la mia è una vita infelice. Io, prima di passare al prossimo passo, io voglio leggervi un messaggio. Mi scuso per la banalità, nessuno parla di salute, io ho 3 tumori e non cammino, sono felice ogni giorno che non ho dolori e che mi è concesso di stare qua giù. Abbiamo parlato dell'importanza dei soldi, io ho aperto dicendo che ognuno cerca una sua felicità, no? In base alla sua condizione. Io penso che questo, e ne sono arrivati altri, numerosi di pazienti, di ascoltatori che mi scrivono e si confrontano con un problema di salute serio, e che sono felici di avere la possibilità, no? di guardare fuori dalla finestra, di tirare avanti, di stare con i loro cari. È un altro forse livello, Alberto, di felicità. Che comunque ci aiuta un po' a riflettere, e no? Credo che è un'esperienza che poi fanno veramente tantissime persone, cioè nel momento in cui attraversi davvero una grande crisi per motivi oggettivi come quelli legati alla salute, è come se la vita ti aiutasse a ricostruire una gerarchia dove metti un po' ogni cosa al suo posto. E quindi le tante persone che stanno scrivendo ribellandosi all'idea che noi diciamo che nei soldi non c'è la felicità, noi non stiamo dicendo quello. Certamente non diciamo non che avere tanti, certo, ma non diciamo che chi è... scusate, ma se tanti soldi danno la felicità, noi dovremmo avere tutta una categoria di persone ricchissime che ci stupiscono per le loro vite felici, e invece ogni giorno sul giornale leggiamo l'esatto contrario. Dottoressa Giovannini, in questo percorso personale di allenamento alla felicità, lei ci invita a dimenticare un po' noi stessi a favore degli altri. Sembra un po' un buonismo, però il risultato sembrerebbe garantito, ma anche scientificamente testato e misurato. In un esperimento, Sonia Lyubomirsky della California University ha chiesto a un gruppo di persone di fare 5 atti di gentilezza alla settimana. Non doveva essere coinvolto il denaro, dovevano essere puri e semplici gesti di amore, come scrivere un biglietto di ringraziamento o di apprezzamento, abbracciare qualcuno, donare il sangue, aiutare uno sconosciuto per strada. I partecipanti che l'hanno fatto per 6 settimane di seguito hanno aumentato il loro livello di felicità del 40%. Dottoressa Giovannini. Sì, io credo che siamo qui sulla terra per contribuire. Io non credo che siamo qui solo per consumare delle risorse, mangiare, respirare, occupare spazio. Credo che siamo qui per fare la differenza attraverso la nostra vita. E c'è un antico proverbio cinese che mi piace molto e che mi ricordo, insomma, sempre, e dice: se vuoi la felicità per un'ora fatti una dormita, se vuoi la felicità per un giorno vai a pescare, se vuoi la felicità per un mese sposati, se vuoi la felicità per un anno eredita una fortuna, se vuoi la felicità per la vita aiuta gli altri. No, stavo pensando a mio marito che è sposato da me ormai da 25 anni, il proverbio cinese dice un mese. Almeno un mese è stato almeno felice. Almeno un mese è stato felice. No, stavo, è una battuta stupida, ma Carla da Milano, buongiorno. Buongiorno. Niente, mi trovo proprio pienamente d'accordo con quello che ha appena detto la dottoressa da voi in studio. Sì. Io credo personalmente che... cercare e trovare, se possibile, la felicità dovrebbe essere l'obiettivo della vita di ognuno. Mm. Ognuno poi lo fa come riesce, no? Certo. Secondo me il modo migliore sarebbe quello appunto di, per me è questo, cioè aiutare quando posso. Senta Carla, io ho quasi le strade, che devo essere puntualissima. Quando lei si sente giù di morale o infelice, cosa fa? Ha un pensiero, una canzone, una musica, un'immagine, un... che fa? Le do il tempo per pensarlo, sì. La ripesco dopo perché abbiamo bisogno anche di strategie. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, le code, abbiamo sentito il nostro amico Luca, non certo, non rendono certo felici, ma ahimè ci sono. Andiamo a sentire. E noi torniamo con la ricetta di Carla da Milano. Buongiorno, ribuongiorno. Buongiorno. Ci ha pensato allora Carla? Allora... quando è un po' giù, sì. Perché capita a tutti, Cerco di fare quello che mi piace, insomma. Si gratifica? Sì. Ecco, però volevo anche fare una domanda. Mm. Io ho una bambina di 5 anni, sì. No? E le chiedo spesso se è una bambina felice. Mm. Lei mi risponde sì. Certo. E quando la vedo felice, naturalmente sono felice. Mi chiedo come, se c'è una ricetta per secondo la quale si possono crescere bambini che non sono bambini solo felici ma che saranno dei futuri grandi felici. Una domanda da mille punti che giro rapidamente ad Alberto Pellai, perché lui sta facendo pratica. Alberto, è giusto dire ad una bambina sei felice? Ma la domanda poi magari per una bambina può anche essere fin troppo astratta. Che cosa ci è piaciuto della giornata di oggi? Elenchiamola e risorridiamo a ripensare a tutte quelle cose. Fondamentalmente i figli felici sono quelli che ridono tanto insieme ai loro genitori, agli adulti che per loro sono significativi. Quindi una gara di barzellette, una gara di canto, un ballo fatto insieme prima o dopo la cena, ecco, tutte queste cose danno la felicità perché significano condividere attimi di una bellezza speciale tra persone che si vogliono bene. Abbiamo il messaggio di Fiordaliso, arrivato fresco fresco. La capacità, la felicità è la capacità di cogliere e concretizzare le proprie necessità qui ed ora, e questo comportamento all'ascolto costante di noi stessi senza razionalizzare. Quindi è molto, Alberto, questo è un messaggio che ci porta invece ad un'altra dimensione, giusto? Cioè, io credo stare nel momento con consapevolezza, probabilmente è questo quello che ci vuole dire Fiordaliso. Allora, io, dottoressa Giovannini, c'è un'altra parola che secondo me, vedendo la felicità come una torta, fa parte, è uno degli ingredienti per questa torta, la parola è gratitudine. Ci sono tesori di felicità intorno a noi. Il problema è che spesso li diamo per scontati e ce ne rendiamo conto e li apprezziamo solo quando è troppo tardi. Gli studi ci dimostrano che le persone che tengono un diario gratitudine, in cui scrivono, prima di andare a letto, 5 cose per cui sono grati, sono più sani e più felici. Bastano 2-3 minuti e fa una grande differenza. Ogni giorno scrivete almeno 5 cose di cui siete grati. Alcune delle cose possono anche ripetersi da un giorno all'altro. Esplorate tutti i campi della vostra vita: salute, lavoro, amicizie, famiglia, aspetto fisico, emozioni, luoghi dove vivete, persone o situazioni con cui venite in contatto, nuovi insegnamenti e conoscenze. Non datevi limiti, diventate esploratori. Dottoressa Giovannini, saper godere delle piccole cose significa però dare un senso alle cose. Questo è un esercizio che credo non solo possa aiutarci a diventare più sereni, ma ci serva comunque nella vita, tout court, nella quotidianità. Assolutamente, pensiamo alla gratitudine come a un muscolo da allenare tutti i giorni.

un metro e mezzo quando questi starnutiscono, ma almeno però, lavarsi le mani una volta che certo. Si è avuto il contatto. Professore, parlare di raffreddore mi pizzica il naso, ma io sono molto felice di averla sentita, di averla avuta con noi. Grazie, buona giornata a voi ad Alberto Pellai, a domani. Essere e benessere.